L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti con il consueto resoconto della settimana. Parleremo dei fatti principali da sabato scorso 31 ottobre fino a ieri venerdì 6 novembre. Voglio subito, ci tengo particolarmente a richiamare la vostra attenzione su tre argomenti che sono tutti piuttosto controversi, che saranno al centro della puntata di oggi. Innanzitutto l'influenza A, confesso che a volte non ho ben chiaro se la categoria a cui appartengo, cioè quella dei giornalisti, rimane dentro gli argini della corretta informazione, del diritto di cronaca, come si dice in questi casi, oppure a volte non si sia spinta anche oltre nei territori impervi dell'allarmismo. Poi apriremo un capitolo che potremmo definire il lato oscuro del mondo del carcere, con le vicende di Diana Bleferi e gli sviluppi poi dell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. Ci sono anche qui molti lati davvero oscuri, davvero inquietanti. E poi parleremo anche del crocifisso, che l'avete sentito in settimana, bisogna togliere dalle scuole italiane, secondo una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani. Visto che non mi piace nascondermi, dico subito che questa sentenza francamente mi convince molto poco, ma naturalmente tra poco invece sentiremo un parere molto più autorevole del mio su questo. Ma cominciamo dall'influenza. Allora, è stato un tema forte della settimana, almeno in un paio di giorni ho notato che è stato poi il titolo d'apertura sui giornali italiani. In effetti ogni morto di influenza fa piuttosto notizia, a cominciare poi purtroppo dalla bambina di 11 anni di Pompei morta sabato scorso. Poi il bollettino si è terribilmente aggiornato di giorno in giorno, è salito, siamo oltre a 20 vittime ormai collegate in un modo o nell'altro all'influenza, anche se molte delle vittime, bisogna giustamente ricordarlo, avevano altre patologie molto gravi che hanno quindi forse determinato il decesso ancor più della stessa influenza. Parallelamente ci sono state polemiche sui vaccini, tra ritardi nella distribuzione e gli stessi medici che in alcuni casi invitano a vaccinarsi, in altri sono i primi a non volersi vaccinare, quindi anche qui regna sovrana, come si dice in questi casi, la confusione. Cerchiamo allora di mettere un punto, facciamo un po' di chiarezza con questo servizio di Roberta Pellegata, nato in onda ieri mattina, fornisce qualche numero utile e poi racconta soprattutto della giornata di giovedì del viceministro Fazio, che è stato a Napoli, ovvero la città più colpita d'Italia. 540.000 casi la settimana, un bambino ogni 30 a casa con l'influenza A, 41.000 persone già vaccinate. Questi alcuni dei dati dell'ultimo bollettino del Ministero del Welfare, che ribadisce la bassissima mortalità del nuovo virus, pare allo 0,0025% rispetto allo 0,2% della normale influenza. Il caso Campania non esiste, ha sottolineato ieri a Napoli il viceministro alla salute Fazio. La città è attrezzata e il virus arriverà anche nelle altre regioni. Non è però aggressivo, ha tranquillizzato, invitando a procedere con le vaccinazioni per evitare in futuro una sua mutazione. Riteniamo di arrivare entro, direi, i primi giorni di dicembre, se tutto procede in modo opportuno, a riuscire a distribuire alle regioni la dose di vaccino sufficiente per vaccinare perlomeno una grandissima parte, l'80-90% delle categorie a rischio di questi pazienti. L'accordo sulle forniture dei vaccini è stato raggiunto nella conferenza Stato-Regioni, che ha anche individuato la rete di centri di riferimento per i casi gravi, che saranno 14. Intanto le famiglie di due persone morte giovedì a Roma, già affette da patologie pregresse, hanno denunciato il personale sanitario per difetti di assistenza e per negligenza. La Procura della Capitale ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Sono davvero infiniti gli aggiornamenti che Radio 24 ha fornito in questa settimana sull'influenza, soprattutto dalla Campania, è ovvio, è la regione più colpita d'Italia. Tra i tanti servizi andati in onda ho scelto un piccolo, ma direi significativo, reportage della nostra Valeria De Rosa, che in questi giorni è andata alla ricerca proprio del vaccino. Questa è la seconda puntata della sua avventura, andata in onda ieri nel GR delle 7. Salve, sono sempre la stessa che aspetta un bimbo e due giorni fa vi avevo raccontato l'odissea tra ASL, consultori e ospedali per ottenere l'agognato vaccino per l'influenza A. Vi avevo anche detto che non avrei creduto fino a quando non avessi ottenuto la mia puntura. Ieri sono riuscita nell'impresa. Alle 14 in punto ero all'ospedale di Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano. Trovo con facilità il padiglione e l'ambulatorio indicato sul sito. Nella stanza dove mi fanno accomodare ci sono altre 14 tra signore e signorine in attesa, con pance più o meno pronunciate. Ci consegnano un foglio da compilare, tecnicamente si chiama consenso informato, ma mai come in questi casi serve all'ospedale regole per evitare guai futuri. La dottoressa che viene a spiegarci fasi e contenuto del vaccino ci tiene a ribadire che dati statistici non ce ne sono, quindi non è possibile conoscere le eventuali conseguenze. In molti occhi leggo preoccupazione. Alla fine saranno in 6 a rinunciare al vaccino. Io conquisto la mia puntura alle 14:45. Poi mi dicono di aspettare almeno mezz'ora per eventuali reazioni. Alle 15:30 sono già in macchina, di ritorno a casa. La mia odissea è stata ricompensata. Adesso apriamo un capitolo che purtroppo tutto il sospetto che sia una vera e propria voragine, che in apertura di trasmissione ho chiamato il lato oscuro del carcere in Italia. Già, perché nell'ultima puntata avevamo già affrontato la bruttissima storia di Stefano Cucchi, lo ricorderete, il ragazzo morto in carcere dopo una settimana, in realtà tra mille dubbi, polemiche, ci sono state delle omissioni, delle foto inquietanti del suo cadavere pieno di fratture con gli occhi gonfi. Tra l'altro ieri abbiamo visto anche le ultime foto da vivo di Cucchi. In questi giorni poi alla vicenda di Cucchi si è sovrapposta un'altra storia, e cioè quella della brigatista Diana Bleiferi, che si è suicidata in carcere domenica scorsa. Allora sentiamo due servizi, il primo di Andrea Viali e poi di Elisabetta Fiorito, e poi ne parleremo con un ospite in studio. Nel suo caso l'aspetto punitivo ha prevalso su quello umano. Non l'hanno curata perché era un ex brigatista, e questa l'accusa dei difensori di Diana Bleiferi Melazzi, la militante delle nuove BR morta suicida sabato sera. Poche ore prima le era stata notificata in carcere la sentenza della Cassazione che confermava la sua condanna all'ergastolo per l'omicidio Biagi. Soffriva da tempo di disturbi psichici, ma le sarebbe stato impedito di curarsi, sostengono i familiari, che hanno chiesto alle istituzioni di accertare ora ogni responsabilità. Un appello rilanciato da uno dei legali dell'ex BR, l'avvocato Spigarelli. Diana Bleiferi si è impiccata in carcere e ci dicono, così come è stato in tutti questi anni, che era sorvegliata a vista. Dobbiamo ritenere che evidentemente qualche difetto in questa sorveglianza a vista ci deve essere stato. Sul suicidio di Diana Bleiferi è intervenuto anche il ministro della giustizia. Per i giudici che seguivano il suo caso, le condizioni della donna erano compatibili con la vita in carcere, ha detto Alfano, il quale ha comunque disposto l'apertura di un'inchiesta amministrativa per fare piena luce sulla vicenda. Tutte le migliori intenzioni, ma i punti da chiarire sono ancora molti. Il governo si impegna ad accertare la verità sulla morte di Stefano Cucchi, deceduto nel carcere romano di Regina Coeli. Lo promette il ministro della giustizia Angelino Alfano al Senato. Stefano Cucchi non doveva morire e si doveva evitare che morisse. Uno Stato democratico non può privare nessuno della propria dignità, della propria salute e della propria vita. Ecco perché il governo è in prima linea nell'accertamento della verità. La Procura di Roma, rivela poi Alfano, ha aperto 2 fascicoli per lesioni e mancata alimentazione. Ad ascoltare Alfano nel banco del pubblico, Ilaria Cucchi, la sorella del giovane deceduto, che chiede chiarezza. Sapere come è stato possibile che mio fratello fosse lasciato morire lentamente in solitudine, sapere perché non è stato concesso ai familiari di sapere anche semplicemente il motivo per cui stava male. Da parte dell'opposizione interviene in aula Anna Finocchiaro del PD. C'è una domanda che mi ha fatto mia figlia l'altro giorno, che ha 16 anni. Mi ha detto: mamma, ma che paese è diventato mai questo? Intanto il Senato avvia una commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. Collegata con noi Donatella Stasio, giornalista del Sole 24 Ore, che conosce molto bene, oserei dire, dall'interno il tema delle carceri, ha anche scritto un libro, Diritti e Castighi, Storie di Umanità in Carcere. Buongiorno Donatella. Buongiorno. Allora Donatella, abbiamo ascoltato insieme i 2 servizi, il primo di Andrea Viali e il secondo di Elisabetta Fiorito, e devo dire che ci sono state delle parole che mi hanno colpito molto. Per esempio l'accusa che fanno i legali della Bleiferi, che dicono l'aspetto punitivo ha prevalso su quello umano nel suo caso, e poi le parole che abbiamo risentito di Anna Finocchiaro, che si chiede dove è finito la democrazia, che paese è ormai l'Italia se succedono fatti come quello di Stefano Cucchi. Tu da queste 2 storie che morale, immagino tragica, ricavi? Ma il problema riguarda il senso che vogliamo dare al carcere nel nostro paese. Purtroppo negli ultimi anni il carcere è diventato la risposta a qualunque tipo di problema, a qualunque tipo di violazione. Si è perduto di vista completamente la funzione del carcere. La funzione del carcere non è quella di punire, ma è quella di rieducare. Lo dice chiaramente la nostra Costituzione, rieducare nel rispetto della dignità delle persone. Non è un'affermazione di principio puramente teorica, è un'affermazione che anche diciamo, un contenuto concreto proprio ai fini della sicurezza molto importante, perché il carcere che rieduca è un carcere che produce non solo libertà ma anche sicurezza collettiva. Quindi quando, diciamo, si fa una politica della sicurezza come quella che si è fatta negli ultimi anni e che ha raccolto moltissimi consensi, si deve tener conto di questa funzione del carcere. Purtroppo si è persa completamente di vista questa funzione, e con l'aggravante del sovraffollamento, che sicuramente poi non aiuta chi lavora in carcere a svolgere appunto la funzione propria, il carcere è diventato appunto un luogo in cui i diritti fondamentali delle persone, a cominciare dal diritto all'integrità fisica, rispetto della dignità e quant'altro, sono dei diritti calpestati. Quello che colpisce appunto di queste situazioni, in modo particolare devo dire, soprattutto rispetto al caso di Stefano Cucchi, è al di là dei fatti gravissimi, se saranno accertati, delle lesioni e quindi dei cosiddetti pestaggi e delle mancate cure che non gli sarebbero state prestate, è anche, come dire, il modo in cui questo signore è stato trattato, senza nessun riguardo, senza nessuna attenzione, per esempio ai rapporti familiari, cioè pensare, immaginare questi genitori che sono andati appunto a chiedere informazioni in ospedale, che si sono sentiti rispondere dal piantone torni domani, torni dopodomani, come se appunto non si stesse parlando di una persona ma di un numero, perché poi appunto i detenuti sono considerati alla stregua di numeri. Ecco, questa è una cosa che veramente ci dovrebbe far riflettere quanti. Ma quindi, Donatella, giusto per fare ulteriore chiarezza, secondo te nei casi sia di Stefano Cucchi che di Diana Breiferi, naturalmente con le differenze delle due vicende, non si tratta né di fatalità né di disattenzioni magari in buona fede, ma a tuo avviso di colpe esplicite, di colpe gravi dello Stato in quanto proprietario e gestore delle carceri? Beh, sicuramente c'è una colpa grave. Questo ragazzo, questo uomo, questo giovane uomo, ma anche nel caso della Blefari, per carità, le persone in carcere si suicidano, non possiamo far finta di non sapere o di sapere soltanto quando appunto esplodono dei casi come questi, che la gente in carcere muore un detenuto ogni 2 giorni, si suicida un detenuto ogni 5 giorni, quindi, come dire, non è una novità. Sicuramente c'è una colpa dello Stato, perché lo Stato, come dicevo prima, deve garantire l'integrità fisica, deve garantire il rispetto della dignità delle persone, e queste sono persone che sono passate attraverso delle strutture statali, quindi comunque lo Stato dovrebbe chiedere scusa. Ecco, Donatella, tu prima hai segnalato come mai si sia persa in gran parte la funzione rieducativa del carcere, e io pensando al sistema carcerario, le cose che non funzionano, ho individuato 3 principali falle. La prima è quella del degrado di molti istituti penitenziari, che sono vecchi, fatiscenti, ormai anacronistici. La seconda forse riguarda anche una certa cultura, che mi verrebbe anche da definire per certi versi fascista, di persone magari che lavorano dentro il carcere, che magari abbandonano il loro destino o infieriscono su certi detenuti, magari quelli di serie B come Cucchi. E poi c'è un problema a monte, che è quello del sistema giudiziario, che non funziona, che è lento, e quindi ci sono moltissime persone che restano in carcere per troppo tempo, come si dice in gergo, in attesa di giudizio. Di queste 3 falle che ti ho citato, qual è secondo te la più grave e la più urgente da risolvere? Ma sicuramente sono 3 aspetti importantissimi e collegati tra di loro. Certo, noi abbiamo un sistema giudiziario che fa acqua da tutte le parti, tant'è vero abbiamo dei tempi lunghissimi, non sto qui a ricordarlo. La più della metà dei detenuti oggi presenti, sono 65.000, è in carcere per custodia cautelare, però c'è un problema politico a monte, che è appunto quello, ne parlavo prima, quello per cui il carcere è considerato e ormai percepito, ma senz'altro a torto, non a ragione, come il rimedio di qualunque tipo di violazione. Non è così, purtroppo le carceri si sono riempite soprattutto di poveracci, passatemi il termine, cioè tossicodipendenti, extracomunitari, psichiatrici, persone che in carcere molto spesso non ci dovrebbero stare, tant'è che ci stanno per pochi pochissimo tempo, perché spesso sono condannati a delle pene molto brevi. Allora il carcere va ripensato, innanzitutto ripensando una politica della sicurezza che è anche frutto di una cultura, appunto come dicevate prima, di una cultura che non rispecchia appunto lo spirito della nostra Costituzione, che poi legittima anche degli atteggiamenti di tipo autoritario, io preferirei dire custodiale, diciamo, all'interno della struttura, che è esattamente l'opposto di quello che si chiede a chi lavora nel carcere. Vorrei ricordare, è uscito tempo fa su Le Monde un bellissimo reportage su un carcere svedese, un carcere all'avanguardia, vorrei dire aperto, dove i detenuti appunto non esistono le sbarre eccetera eccetera, e il direttore di questo carcere precisava, facciamo una precisazione banale ma molto importante, diceva: il nostro compito nel carcere non è quello di punire, è compito del giudice punire, il nostro compito è rieducare. Ecco, questo vale a maggior ragione democrazia come quella italiana. Donatella Stasio, collega del Sole 24 Ore, per concludere, ciclicamente e non solo in relazione a vicende tragiche come quelle di cui stiamo parlando, c'è qualche politico che tira fuori dal cassetto un piano carceri. Di solito si tratta di piani molto costosi, che tra l'altro prevedono tempi lunghissimi di realizzazione, perché naturalmente un carcere non si fa dal giorno alla notte, dalla notte alla mattina, e soprattutto poi questi piani rimangono spesso lettera inespressa, rimangono così sogni un po' utopistici. Secondo te su questo aspetto qual è il problema? Tu fossi ministro, da cosa partiresti? No, sicuramente nelle attuali condizioni in cui ci troviamo di sovraffollamento è ovvio che avere degli spazi ulteriori per consentire almeno delle condizioni detentive vivibili può essere utile. Però ripeto, il problema è a monte, è un problema politico, cioè di politica criminale e quindi di politica penitenziaria. Allora io la prima cosa che farei è non pensare che il carcere sia la risposta a tutti quanti i problemi. Esistono, le hanno studiate, le hanno messe anche nero su bianco delle commissioni ministeriali insediate da governi di diversi colori. Esistono le pene alternative, esistono le misure alternative alla detenzione, che peraltro hanno anche degli effetti molto più vantaggiosi sul piano della sicurezza, perché chi beneficia delle misure alternative ha una recidiva molto, ma molto più bassa di chi invece sconta la pena interamente in carcere. Quindi io punterei decisamente su quello. Benissimo, grazie a Donatella Stasio. Ho già ricordato che tra poco faremo una riflessione sulla sentenza europea di martedì che vieta il crocifisso in aula. Adesso però parliamo un attimo di esteri, ci concentriamo sugli Stati Uniti, perché questa che è appena trascorsa è stata una settimana di anniversari. È stato festeggiato il primo anno alla Casa Bianca di Obama, ma è stata anche soprattutto una settimana di elezioni, le prime proprio da quando lo stesso Obama siede nella stanza ovale. Bilancio negativo per i democratici in questa tornata elettorale. Allora sentiamo il resoconto da New York di Mario Platero in onda mercoledì mattina. Un ritorno dei repubblicani alle elezioni di ieri che si sono tenute in America, almeno per le due importantissime poltrone da governatore della Virginia, dove ha vinto appunto Bob McDaniel contro Craig Deeds, e del New Jersey, dove Chris Christie ha battuto John Corzine, l'ex banchiere di Goldman Sachs, appoggiato fino in fondo da Barack Obama. Proprio quest'ultima sconfitta ha destato una certa sorpresa. Un anno dalle elezioni che avevano dato il primo presidente nero all'America, un anno dal risultato che ha riportato i democratici in controllo della Casa Bianca e del Congresso, l'elettorato ha dunque confermato che quelle dell'anno scorso non sono state necessariamente delle elezioni che hanno imposto, che hanno prodotto un cambiamento del baricentro politico del paese. Per la prima volta il tocco magico di Barack Obama, la speranza degli Yes Weekend, si è appannata. Gli indipendenti e democratici moderati, preoccupati dalla disoccupazione, spaventati dall'idea di un ritorno eccessivo dello Stato nei loro affari, sono tornati coi repubblicani, con tutte le conseguenze del caso del partito. Una soddisfazione per i democratici c'è stata con la vittoria invece nel 23° distretto elettorale a New York, dove a sorpresa Bill Owens si è imposto contro il candidato conservatore in un distretto che è da sempre molto repubblicano. Mario Platero ci ha appena ricordato il 23° distretto di New York. Attenzione, si sta parlando naturalmente dello stato di New York al confine con il Canada. Altro discorso per la città di New York, dove invece era in programma una ben più importante corsa elettorale, quella per il sindaco, con Bloomberg che è stato confermato e sarà sindaco per la terza volta, ma per lui non è stato un trionfo. Il successo è stato di poco superiore al 50%, e tra l'altro a salvarlo sono stati i tanti soldi spesi in campagna elettorale. Le cifre oscillano tra i 100 e i 140 milioni di dollari, pensate, circa $200 a voto ottenuto, mica poco per Bloomberg. L'America però in questi giorni ha fatto parlare di sé anche giovedì per tutt'altro, per una strage di quelle che purtroppo di tanto in tanto scuotono gli Stati Uniti. Sentiamo Valentina Furlanetto. Si chiama Nidal Malik Hassan, l'autore della strage avvenuta ieri alla base militare di Fort Hood in Texas. 12 le vittime, 31 i feriti, fra i quali lo stesso attentatore, il cui nome arabo, sono in corso indagini, potrebbe essere il nome di battesimo oppure essere stato cambiato in seguito ad una conversione all'Islam. La sparatoria è iniziata alle 13:30 circa, ora locale le 20:30 in Italia. Hassan ha utilizzato due pistole e ha aperto il fuoco in un'area della base dove avviene lo smistamento dei soldati in partenza e in arrivo dalle missioni di guerra in Iraq e Afghanistan. Hassan è un maggiore, un ufficiale dell'esercito. Secondo alcune fonti sarebbe psicologo o psichiatra. There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army Base in Texas. In a horrific outburst of violence. Una vicenda orribile, ha detto il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Fort Hood è la più grande base militare degli Stati Uniti ed è anche una struttura tristemente nota per l'altissimo numero di suicidi e dove dal 2002 si sono verificate altre 3 sparatorie mortali. Devo fare una piccola precisazione perché nel frattempo ieri mattina purtroppo il bilancio delle vittime della strage è salito a quota 13. E adesso parliamo di politica, però in modo particolare con un taglio un po' diverso dal solito, nel senso che, se mi permettete, la notizia, ahimè, politica della settimana è stata l'uscita del libro di Vespa, di Bruno Vespa, Donne di Cuori, che da ieri è in edicola. Di fatto, attraverso un fiorire di anticipazioni ad arte, tutto il dibattito politico è stato influenzato proprio dalle note di Vespa. Per esempio, in questi giorni abbiamo scoperto che Rutelli presto o tardi lascerà il PD, che Berlusconi non vuole andare al Quirinale ma vuole mandarci Letta, e poi lui stesso ha risposto a modo suo, naturalmente con l'interlocutore che si è scelto lui, alle famose, leggendarie ormai 10 domande di Repubblica. Naturalmente è successo molto nella politica in questi giorni. Ci sono state nuove puntate, nuovi interrogatori della vicenda Marrazzo. C'è questa partita a scacchi per il ministro degli esteri europeo, che potrebbe vedere in corsa, persino appoggiato da Berlusconi, anche l'italiano D'Alema. E poi è giusto ricordare anche la condanna, cosa molto importante questa mercoledì, della CIA per il rapimento, per il sequestro Abu Omar, anche se poi il verdetto ha escluso Pollari, l'ex direttore del SISMI, perché pende su di lui a suo favore il segreto di Stato. Noi però, come detto, parliamo di politica in altro senso, ovvero attraverso una sentenza della Corte Europea che è arrivata martedì, che a mio avviso è molto politica e persino anche un tantino ideologica. Sentiamo Andrea Viali e poi ne parliamo con un ospite in studio. Ha già presentato ricorso il governo italiano contro la sentenza con la quale la Corte Europea dei Diritti Umani ha detto no alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, una presenza che viola il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e viola anche la libertà di religione degli alunni, hanno stabilito i giudici di Strasburgo accogliendo il ricorso di un'italiana di origine finlandese. La donna aveva chiesto che fossero tolti i crocifissi dalle aule della scuola frequentata dai figli, una richiesta respinta dalla giustizia italiana, ma non dalla Corte di Strasburgo, che ieri ha condannato il nostro paese a versarle un risarcimento di 5.000 euro per danni morali, una sentenza che fa discutere. Il Vaticano la considera miope e sbagliata, ha fatto sapere il portavoce della Santa Sede, padre Lombardi. Questa sentenza è stata accolta con dispiacere e direi anche con stupore, perché il crocifisso non è un segnale di divisione o di emarginazione, di non accoglienza degli altri, ma al contrario, è un segno di un amore di Dio aperto a tutti. Molte le reazioni critiche anche nel mondo politico. Il crocifisso in classe non significa adesione al cattolicesimo, ma è un simbolo della nostra tradizione, ha detto il ministro dell'istruzione Gelmini. Un giudizio simile arriva anche dal segretario del PD Bersani, secondo il quale la presenza del crocifisso non può essere offensiva per nessuno. Allora, mi ha raggiunto in studio Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi. Allora Carlo, io già ad inizio trasmissione ho espresso il mio scetticismo, la mia poca convinzione di fronte a questa sentenza che arriva dall'Europa. Io sul piatto aggiungo due pareri importanti e opposti, proprio a caldo dopo la sentenza. Da un lato Stefano Rodotà ha detto su Repubblica, ha scritto che questa sentenza a suo giudizio ci porta verso un'Europa più ricca, e poi ho letto con interesse ieri un'intervista invece sul Corriere della Sera a Don Verzei, il fondatore del San Raffaele, che non ha usato mezzi termini, ha detto è una cosa orrenda, uno sputo su tutto quello che di grande ha fatto l'Europa. Dunque, parafrasando Carlo, secondo te questa è una sentenza laica o laicista? Perché qui poi è l'oggetto del contender. Ma secondo me sì, laica probabilmente, perché non hanno applicato secondo me una questione ideologica, ma hanno messo sul tavolo dei diritti, e in maniera così molto, molto leguleia hanno valutato che questo crocifisso potesse essere lesivo della libertà religiosa degli altri. E quindi in maniera settica, critica, senza come dire una contestualizzazione forte del fatto che cos'è in Italia il crocifisso. È giusto essere asettici allora di fronte a una questione del genere? Ma no, perché questa qui non è una, secondo me non c'è una questione di diritti. Poi possiamo discutere se sia un bene o un male, possiamo ragionarci sopra, ma non può decidere una corte sulla base di leggi, perché i cattolici dicono un simbolo di libertà religiosa. Molti laici sono molto scettici su questa sentenza, perché quantomeno poi porta divisione, porta ulteriore caos. C'è chi dice che togliamo il crocifisso e che cosa ci mettiamo, per esempio. Altri dicono se togliamo questo ci vanno messi tutti i simboli religiosi. Quali? C'è chi adora, ci sono gli ebrei, ci sono i musulmani, c'è chi adora dei pagani, il vitello d'oro. Cioè, capisce che la situazione è talmente complessa che non può essere un giudice a Berlino, in questo caso a Strasburgo, che decide su cosa accade su un processo così complesso. Questo non toglie che ci sono dei problemi, anche diciamo così, ci sono dei retaggi che alcuni considerano del passato, i crocifissi, che forse meriterebbero delle riflessioni. Ma io credo che questo tema comunque in Italia sia già stato superato anni fa, quando, ricorderete, ci fu la sentenza all'Aquila sul ricorso di un musulmano, quando un giudice all'Aquila decise di togliere un crocifisso in una scuola, e ci fu la sollevazione nazionale in quella volta ancora più di oggi, tant'è che l'allora presidente della Repubblica Ciampi, laico notoriamente, anche se cattolico nel privato ma laico in politica, la difesa è un simbolo di tutti. Poi tra l'altro quella vicenda, o comunque un'altra parallela, rischiò anche di arrivare alla Corte Costituzionale, che però non vuole pronunciarsi, e chi adesso sostiene invece a favore di questa sentenza europea dice che l'Europa ha coperto una falla del sistema italiano, come se la Corte italiana si fosse voluta un po' lavare le mani in maniera pilatesca della vicenda. Tu su questo che cosa pensi? Allora, l'Europa, cioè teso queste organizzazioni internazionali, naturalmente, come dire, scelgono sempre la linea più avanzata nel senso come dire filosofico del termine. Si va sempre oltre, al massimo si tocca il punto massimo che comprende il tutto, e poi dopo casomai si torna indietro. Avesse detto il contrario, cioè che il crocifisso può rimanere, secondo me avrebbe suscitato ancora più caos, perché già allora tutti sarebbe mosso tutto un altro movimento di opinione. Non è un caso che il governo spagnolo, l'anticlericale governo spagnolo, Zapatero, ha bloccato la legge che era in discussione nel Parlamento di Madrid, che avrebbe portato a togliere i crocifissi nelle aule scolastiche spagnole. Zapatero, quindi evidentemente si sono inseriti su un meccanismo di valutazione che andava ben oltre una decisione di legge. Ecco, naturalmente la questione ha tenuto banco anche in questi giorni qui a Radio 24, è stata al centro della puntata di mercoledì, quindi il giorno successivo alla sentenza di Bianco e Nero, la trasmissione di Alessandro Milan. Attorno a questa questione c'è stato tutto il sondaggio. Allora sentiamo come hanno risposto gli ascoltatori di Radio 24 all'appello: siete favorevoli o contrari a questa sentenza della Corte Europea? No ai crocifissi nelle scuole italiane? La pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo non piace ai nostri ascoltatori. Il 61% la giudica una sentenza sbagliata, evidentemente figlia di una deriva laicista più che di uno Stato laico. Chi non fa troppi giri di parole è Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC, che bolla con un aggettivo questa decisione. Stupida. Qual è il pensiero che sta dietro la sentenza? Che tutti i simboli della religione cattolica devono essere tolti, perché lo spazio sociale deve rimanere vuoto. Non è così. Chi viene in Italia, chi viene in un paese che ha quella storia, quella cultura, quella tradizione, fortemente sentita anche da tanti che non vanno in chiesa, però hanno il dovere di rispettarlo. Non è imposto a nessuno. Cosa faremo? Cancelleremo le chiese? Luca, mi sembra di capire che gli ascoltatori del 24 sono abbastanza contrari all'iniziativa di Strasburgo. Io faccio notare tra l'altro che la sentenza ha quasi compattato magicamente anche il Parlamento, perché quasi tutti, da destra e sinistra, si sono detti favorevoli al ricorso, quindi potremmo scoprirci un paese diviso su tutto ma unito nella difesa del crocifisso. Ti lascio, Carlo Maroni, gli ultimi 30 secondi per chiudere un po' questa questione, cercando anche di capire che cosa tecnicamente succederà adesso. Solo una notazione: è naturale che su questo si siano tutti compattati, ma è talmente evidente, questa non è la pillola abortiva, non è il divorzio breve, non sono le questioni classiche dove la destra e la sinistra italiana si scontrano. Qui c'è un problema di simbolo. Come ricorderemo, ci fu un maestro che non fece fare il presepio un paio di anni fa in un asilo per non disturbare i 3 bambini musulmani. E naturalmente queste sono, come dire, gli ultrazelanti, le posizioni. Cosa succederà? Succederà che ci sarà un ricorso e questa cosa finirà nel niente. La Chiesa ha detto: non ci possiamo prendere solo dall'Europa le zucche di Halloween, ci dobbiamo prendere la parte buona. Questa sentenza probabilmente dà forza a chi è contro le istituzioni europee. Quindi a tuo giudizio i crocifissi resteranno lì? Resteranno lì, probabilmente si troveranno delle vie migliori, si troveranno delle soluzioni che però vanno contestualizzate con l'ora di religione, per esempio. Non è che si può fare una cosa randomica, togliamo quello, teniamo un altro, mettiamo quello. Questa è una questione, sono questioni talmente grosse che non ne può decidere uno che non è italiano, per esempio. Grazie a Carlo Maroni. In apertura di questa ultima parte dell'ottavo giorno diamo qualche notizia di economia. Ieri è stata una giornata di dati su cui poi ognuno naturalmente riflette come gli pare, come crede. L'OCSE per esempio ha dato segnali positivi e vede segnali di miglioramento nella situazione di tutti i paesi dell'OCSE, ma in particolare anche dell'Italia. Poi sono invece arrivati i nuovi dati preoccupanti sulla disoccupazione negli Stati Uniti. Hanno superato gli americani la soglia del 10%, e se non ricordo male l'economista premio Nobel Krugman parlava tempo fa del 9% come della soglia critica di non ritorno per l'America, quindi siamo veramente a dati inquietanti sul versante dell'occupazione. Poi invece giovedì arriva una notizia importante sul versante italiano, quello del congelamento degli 800 milioni da investire sulla banda larga, e su questo già si è aperto da ieri un fronte di polemiche molto acceso. Sempre giovedì arrivano novità sullo scudo fiscale che ci racconta Dino Pesole. Proroga dello scudo fiscale al 30 giugno 2010, limitatamente alle cessioni di immobili e alle partecipazioni azionarie. E quanto prevede un emendamento alla finanziaria messo a punto dal senatore della maggioranza Salvo Fleres, che è già stato relatore del decreto con il quale è stata disposta l'estensione del raggio d'azione dello scudo. L'emendamento servirà a compensare alcune delle misure che governo e maggioranza si apprestano a inserire al testo della finanziaria in Senato e poi alla Camera in seconda lettura. Più fondi alla sicurezza, un primo taglio all'IRAP attraverso l'esenzione delle perdite delle imprese che verrebbero escluse dal calcolo della base imponibile, ma anche la graduale istituzione della cedolare secca del 20% sui redditi da locazione, sconti in vista anche per gli affittuari collocati nelle fasce di reddito più basse. A partire da martedì l'Aula del Senato avvierà le votazioni sui 550 emendamenti presentati finora. C'è sicuramente un nesso con lo scudo fiscale di cui ci ha appena parlato Dino Pesole, con quello che invece sta accadendo tra Italia e Svizzera, perché si è innescata una guerra sul piano economico portata avanti sul fronte italiano dal ministro dell'economia Tremonti. Sentiamo Lino Terlizzi da Lugano lunedì mattina. Eravamo pronti a ratificare l'accordo sulla doppia imposizione, ma ora i negoziati con l'Italia sono congelati. Hans Rudolf Merz, ministro svizzero delle finanze e presidente della Confederazione, ha annunciato così in un'intervista al giornale domenicale Sonntagsblick la sospensione dei colloqui con Roma su quell'accordo che è poi il veicolo con cui la Svizzera ha scelto di fissare una maggiore collaborazione contro l'evasione fiscale. Berna ha siglato con altri 12 paesi questo tipo di accordo, uscendo così dalla lista grigia in cui l'OCSE aveva raggruppato i cosiddetti paradisi fiscali. Non ha sin qui firmato con l'Italia, appunto. Berna accusa Roma di tenere ancora la Svizzera nella sua lista nera, di trattare così in modo scorretto la stessa Svizzera con alcune norme dello scudo fiscale. L'irritazione di Berna viene poi anche dalle perquisizioni in 76 filiali di banche elvetiche in Italia nei giorni scorsi, operazione indicata in Svizzera come discriminatoria. Merz, che in precedenza aveva lasciato invece intravedere la possibilità di proseguire nei negoziati, si è dunque spostato su una posizione più rigida. La sua collega titolare del Dicastero dell'Economia, Doris Leuthard, dal canto suo ha parlato della necessità di cercare di riaprire comunque un dialogo. Dall'Italia, il sottosegretario all'economia Luigi Casero ha affermato che la scelta svizzera non porterà a nulla e che l'Italia andrà avanti per la sua strada. Lo scontro fiscale e politico tra Berna e Roma per ora resta aperto. Ed è stata questa una settimana anche molto movimentata, molto accesa nel mondo dei motori, perché giovedì Marchionne ha presentato il piano industriale per Chrysler, che in estrema sintesi prevede 21 modelli entro il 2014 e poi conti in pareggio già nel 2010, quindi già l'anno prossimo. Ma direi che il colpo di scena più incredibile di questi giorni riguarda la vendita, anzi la non vendita a questo punto, di Opel. Torniamo allora a martedì con Andrea Malan. Il consiglio di amministrazione della General Motors, riunitosi ieri a Detroit, ha deciso di non vendere più la filiale europea Opel, cancellando così gli accordi preliminari per la cessione alla cordata russo-canadese formata dalla Magna e dalla Sberbank. Fino a ieri il via libera all'operazione era dato quasi per certo. La marcia indietro costituisce dunque uno smacco per il governo tedesco, che per tutti i mesi di trattativa si era impegnato a fondo per agevolare l'operazione. General Motors investirà ora 3 miliardi di euro nella riorganizzazione di Opel e della consociata inglese Vauxhall. Ieri i vertici di GM hanno spiegato la decisione con il miglioramento dello stato di salute dell'azienda stessa e delle attività europee. Ma il colosso americano, appena uscito, lo ricordiamo, dall'amministrazione controllata, si regge sui finanziamenti del governo di Washington, che ne è diventato azionista di maggioranza. I fondi per rilanciare Opel dovranno quindi arrivare dai governi europei e dal mercato. Un compito che non sarà facile con Berlino, che avrà il dente avvelenato. L'altro scoglio rilevante è rappresentato dai dipendenti tedeschi di Opel, che hanno sempre sponsorizzato Magna in cambio della promessa di non chiudere stabilimenti. Davvero complicato l'intreccio GM, Magna, Opel, insomma è successo veramente di tutto in questi giorni. L'intreccio è anche a livello diplomatico, perché sicuramente la Merkel e anche Putin non l'hanno presa poi benissimo questa scelta da parte americana. Invece adesso voglio veramente cambiare pagina e dedicare gli ultimi minuti a ricordare due grandi che sono scomparsi in questi giorni. Martedì infatti è morto a 100 anni Claude Lévi-Strauss, il padre dell'antropologia moderna, mentre domenica a 78 anni se n'era andata la poetessa Alda Merini. Il ritratto di Paolo Panceri. Ricordo che Alda Merini è una donna che può vantare più di 20.000 copie di raccolte di poesie vendute in questo paese. Ecco, per esempio il dolore, ecco. Non vedere mai gli introiti. Io ti dico una cosa, le volte mi dicono ma la pagano, dico sì e no, però il godimento di sentirsi amati non è da tutti i giorni. Lo scambio di battute fra Alda Merini e Piero Chiambretti sui diritti d'autore rivela molto del carattere della poetessa. Viveva quasi per scelta in condizioni economiche precarie in un piccolo appartamento sui Navigli di Milano, pieno di libri e quadri, con il televisore e il riscaldamento sempre accesi, i numeri di telefono scritti sui muri, il pavimento disseminato di cicche di sigarette e il vecchio pianoforte. Nella sua opera Alda Merini ha cantato gli esclusi dopo aver vissuto per 20 anni in prima persona le sofferenze della malattia mentale. Considerata la più grande poetessa italiana contemporanea, esordisce ad appena 15 anni con la raccolta La presenza di Orfeo e frequenta maestri come Quasimodo, Montale e Manganelli. Alda Merini era stata protagonista negli ultimi anni di molte apparizioni teatrali e di un documentario presentato quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo finito anche per oggi, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento come sempre a sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, naturalmente su Radio 24.